Io non rido mai, perché proprio non c'è niente da ridere. Io odio tutti e tutti mi fanno schifo e non mi piace studiare nemmeno il solfeggio perché finisce sempre che mi picchiano sulle mani. Anche a tavola quella scema della Fraulein mi picchia sulle mani se non sto nella posizione giusta e così c'ho sempre i geloni che poi mi sgridano perché i geloni non stanno bene a una ricca. Io non voglio fare l'inchino alle signore. Una volta non l'ho fatto alla Toti dal Monte, la Fraulein mi ha chiuso a chiave in cantina al buio, così ho fatto la cacca sulle patate. Io odio anche le sottane scozzesi a pieghe, con le bretelle e il vestito alla marinara perché mi ingrassano, mentre a mia sorella Maria Rosa stanno bene perché lei è tutta magra. Ma mia mamma dice che le bambine ricche devono vestire uguali perché all'estero si fa così. I bambini poi li odio più di tutti, tanto lo so che mi prendono in giro e mi sparlano dietro. Un giorno prendo la roncola di Giuseppe, che è il marito dell'Antenisca, e ne accoppo 5 o 6. Al mare, mia mamma vuole che tengo il bollerino di spugna aperto come Maria Rosa, ma lei è proprio tutta para, io ho già un grosso petto e io odio il petto, il bollerino e tutti. Però, se me lo copro, vuol dire che sono cresciuta e che mia mamma è invecchiata. E allora non si può, tanto a lei non gliene importa niente se i bambini mi prendono in giro e mi pizzicano le cosce. Ma io però sto bene attenta, aspetto il momento buono e gli mollo un calcio dove c'hanno il coso e subito scappo, così nessuno sa che ero io. Un po' alla volta li mando tutti all'ospedale. Insomma, mia mamma me ne combina sempre tante, ma io non mi azzardo a odiare anche lei, perché siccome è proibito, chissà cosa succede, allora, quando non ne posso più, me ne vado a piangere in fondo al parco. Con delle belle fette di pane con sull'olio, l'aceto, il sale e mi consolo quasi subito. Perché l'Antenisca, che è la mia cuoca, mi vuole bene, forse. Lo so che tu ce l'hai con me, mi guardi con disprezzo perché non amo te. Lo so che mi vorresti secca, sperando che da morta io ti dicessi sì. Io adesso abito in via del Babuino, proprio di fronte alla statua del Babuino, e mi trovo bene in questa strada perché assomiglia a Riccione. Si zoccola in su, si zoccola in giù, si prende il caffè, si incontra, si combina. Incontrare e combinare sono i sistemi ufficiali per trovare lavoro, senza non si può. Io ci sono venuta perché è obbligatorio starci, voglio dire che è obbligatorio per quelli che devono diventare famosi e anch'io sarà meglio che lo divento, anche se non so ancora se ne ho proprio voglia. La mia è una casa vera con 2 camere, un bagno, una cucina, il gabinetto è in terrazza ed inverno bisogna andarci col cappotto e le calze. La prima cosa che bisogna imparare subito in questa strada è che bisogna scopare molto e subito dirlo in giro e dire soprattutto com'era il cazzo perché qui hanno molta importanza le misure, cioè se era lungo o corto o grosso o magro o viola, rosa e poi centimetri che il massimo è 9 per l'Italia, mentre in Marocco e in Polonia invece si arriva anche a 14. Più si dice in giro per i ristoranti e più si può forse trovare da lavorare. Intanto salgono di continuo a guardarmi anche gli scrittori perché dicono che sono un personaggio, cioè che sono diversa appunto da quelle che si incontrano per la strada. Più tardi nel cinema mi chiederanno di recitare il mio personaggio e siccome se lo recito vuol dire che sono ancora un'altra, a forza di perdere tempo io non saprò mai chi sono. Vabbè, che così è meglio. Uno dei primi scrittori che è salito è una veneta che si chiama Parise. E vuole sempre scuriosare, ficcanasare perché è più curioso di tutti e torna anche spesso per guardare la Leontien, che è una mia amica che viene da New York attraverso l'Olanda ed è lunga lunga proprio uguale alla Greta Garbo, che poi Fellini gliel'ha anche fatta fare nella Dolce Vita. Insomma, in questa mia casa al Babuino c'è sempre molta gente che ha in continuo delle cose da raccontare, si parla molto anche di questo lavoro che però non c'è mai. Poi si parla anche di tutto quello che si fa all'estero, perché c'è uno scrittore, che è l'Arbasia, che ci va sempre, così quando torna racconta le feste, i teatri, i film e dappertutto trova sempre delle opaline, degli scialli, dei soldati di legno, delle vedove nere, dei trumò, dei portaceneri Liberty, che poi più tardi ha regalato al Festival di Spoleto, che ne aveva bisogno urgente. Io anche ci vado all'estero, cioè mi hanno mandato in Australia a vedere se almeno lì riuscivo a cantare. E infatti ho cantato con Claudio Villa e la signora Ada Salvoni. La signora Ada Salvoni aveva un bellissimo abito con il cerchio e dei cuori ricamati sulla balza in fondo ed era molto famosa in Australia, dove era arrivata 2 o 3 anni prima sulla scia di un grande successo personale ottenuto a Bari nella rivista Pizzica Pizzica là. Durante lo spettacolo io avevo l'incarico di presentarla al pubblico e dovevo dire: signori e signore, reduce dai trionfi della Scala di Milano, ecco a voi Ada Salvoni. Lei subito cantava vinta come l'edera e poi si inchinava per gli applausi e i bis. Con Claudio Villa invece ci sono anche andata a letto per ringraziarlo che non mi aveva fatta rapire da Johnny Gattuso, che mi voleva portare in Nuova Zelanda, dove sono tutti nudi, per tenermi lì per sempre, mentre a me non mi piaceva né lui né la Nuova Zelanda. Claudio Villa invece mi piaceva perché era famoso proprio come un re e ce l'ha grosso. Poi però a Roma mi hanno subito proibito di dirlo in giro perché non è del nostro ambiente. Insomma, lui non è intellettuale, quindi devo stare zitta anche se c'ha il cazzo proprio grosso, almeno un 9. Sia ben chiaro che non penso alla casetta, 2 locali più servizi, molte rate, pochi vizi, che verrà quando verrà. Penso invece a questo nostro pomeriggio di domenica, di famiglie cadenti come foglie, di figlie senza voglie, di voglie senza sbagli, di 1100 ferme sulla via, con i vetri appannati di bugie, di fiati lungo i fossati della periferia. Caro, dove si andrà, diciamo così, a fare all'amore? Non ho detto a passeggiare e nemmeno a scambiarsi qualche bacio. Caro, dove si andrà, diciamo così, a fare all'amore? Dico proprio quella cosa che tu sai. Primo dialogo con Pierpaolo. Ma scusi, lei non se li toglie mai quegli occhiali neri? Non ha voglia di vedermi col colore giusto? Ho i capelli biondi e gli occhi azzurri, sa? Le piacerebbe desiderarmi sessualmente? Ma si rende conto che sono famosa? Mi chiamano la giaguara? È perché cammino con la falcata, guardi, così. Oh, che palle, adesso ti bacio. Guarda che ti ho baciato in bocca, dentro, con la lingua, non te ne sei accorto? Sai, io sono fatta così, io li stupro gli uomini. Sono io che me li faccio, non sono mica loro che si fanno me. Mi scrivi una canzone, anche con dentro tutte quelle borgate, quei noiosissimi ragazzi di vita, coi brufoli? Sai, per via della pubblicità, la giaguara va in borgata, eccetera. Mi porti fuori con la Morante, la Moravia e tutto il Parnaso? Oh, dici proprio delle cose sceme. Certo che ce l'ho la coscienza. L'ego e il superego magari non so, non son pratica. Sono in conflitto? Beh, io non me ne accorgo. Non ho mica tanto tempo da perdere. Oh, senti, ma guarda che gli anni 50 sei solo tu che dici che vogliono dire tutte quelle cose. E il linguaggio poi? Ma perché ti preoccupi tanto? Il linguaggio va bene quello che c'è, basta capirsi senza tante storie. Tu, per esempio, non puoi continuare a vivere con quelle paratassi, sintagma, ossimoro, stilema, eccetera. Il linguaggio poi sarebbe quello? Ma non vedi che sei sempre pallido? Stai sempre a pensare a delle cose che nessuno sa che poi gli tocca fare una corsa per mettersi in pari. Non è nemmeno gentile. Sono vitale. Boh. Beh, questo però è un complimento, no? Oh, non è normale? Meglio, tanto lo so che non sono normale. Ma in fondo che male c'è? Non sarebbe più bello se rimanessi scema, come quando l'ho data via per la prima volta, a Pianoro, in un mucchio di fieno, col sedere zuppo di sugo di pomodori che non avevo voluto togliere di sotto per salvare l'attimo poetico? O anche di quando ho dato il primo bacio, che era inverno e nevicava, io avevo un raffreddore tremendo, con il naso tutto chiuso, insomma, non essendo pratica, non mi aspettavo che all'improvviso quello là mi tappava tutta la bocca con la lingua, che proprio non potevo respirare più. Anche lì, per salvare l'attimo poetico, pian pianino mi sono scostata il labbro col mignolo, ci si è infilata dentro un po' d'aria e mi sono salvata. Ma perché si deve sempre stare attenti alla poesia se si salva o non si salva? Insomma, non si è più carini quando si è un po' scemi? Non è come essere innocenti? No? No, ma perché poi? Va bene, ma dopo, quando sarò intelligente, cosa mi succederà? Ah, ho capito. Modesta la sabene qua, ande di le foglie, ande di la luna, ande di le case, e chi l'ha mai viste con sto chi mi viene da cantare. Nassa me perde, vado un'altra stasera, cocco niente da fa, e poi so vecchia, c'ho 30 anni, e il mondo ancora l'ho da guardare. Mi parano come de giorno d'un'altra città. Ambedi le porte, ambedi i bari, ambedi la gente, ambedi le fronne che staria ne fa sparpallare. Fabia Moretto fa la bella, stasera godo la libertà, spara il guzzetto e torna a casa, che mamma tua te sta aspettando. Me so presa la toppa e non so felice, me posso cegamme, me sento tornata e son fiore de verginità, verginità, verginità, me sento tutta verginità, che sarà, che sarà, che sarà. Allora Ida, questa è una lettura che ci hai fatto dal libro Teta Veleta del 1979. È un libro... È un libro stranissimo, come tutto quello che faceva Laura, cioè un libro anche questo eclettico, fatto in parte di un'autobiografia molto ironica, come era lei, anzi comica proprio. E poi in parte ci ha aggiunto una specie di epistolario con una fantomatica Zelda, poi ci ha messo una sceneggiatura di film, sempre mettendoci i suoi personaggi, che poi erano gli scrittori, gli intellettuali che lei frequentava, che tra l'altro metteva tutti al femminile, la Moravia, la Volponi, la specie di sua affermazione di di contestazione femminile, insomma, all'Oma, la chiamava l'Oma, e quindi la Moravia, anche i registi, la Bolognini, la Monicelli, tutti. Allora lei quindi scrive questa autobiografia, questa specie di autobiografia, questa specie di polpettone, perché lei comunque non poteva mai fare una cosa, come dire, tradizionale. Solo un'autobiografia, no. Così come è sempre stata lei, che affermava una cosa e poi si contraddiceva, una donna che aveva fatto di se stessa una creazione, anche una creazione, si può dire poetica in qualche modo, insomma, anche se non scriveva versi. Quindi si era messa su questa specie di maschera di bambola, bambolona bionda con gli occhioni, questo quando era più giovane, ma dopo ha conservato questa cosa, questa bambolona che sembrava sempre in ammirazione di tutti e invece poi li abbatteva a combattute fulminanti. Questo lo faceva con tutti, lo faceva anche con i politici, la D'Alema, la Veltroni, tutti insomma, e aveva anche, ecco, si può dire che in fondo lei era anche in qualche modo un intellettuale, magari de pancia, non so come dire, con queste sue battute fulminanti che a volte azzeccavano molto profondamente un'analisi, anche se non era razionale, ma insomma. Quindi poi era una grande attrice, aveva un carisma straordinario, vabbè, è inutile ricordare tutta la sua filmografia, un film più bello dell'altro, sia con Pierpaolo Pasolini che con molti altri registi, ma ricordo per esempio uno degli ultimi film con l'Archibugi, dove lei faceva questa infermiera grassa, sempre arrabbiata, che a un certo punto butta il cane, un cagnolino che aveva fatto la pipì nell'infermiera, prende e lo butta dalla finestra. Un pezzo fantastico. Quindi vabbè, lei come attrice, e poi abbiamo sentito come cantante, sì, proprio perché lei così ha cominciato, facendosi scrivere dei pezzi dagli scrittori. Quelle che abbiamo sentito, per esempio, la prima era scritta da Goffredo Parise con le musiche di Gino Negri, e invece no. Poi c'era quella cosa in Lombardia che era di Franco Fortini con le musiche di Fiorenzo Carpi. E poi l'ultima era il valzer della toppa, che era proprio di Pasolini, con la musica del maestro Umiliani. Quindi voglio dire, lei ha cominciato con questi recital di canzoni, e senza avere mai cantato prima, in fondo. Però lei, come dice che appunto gli avevano detto, lei aveva l'orecchio assoluto, insomma, cioè una capacità di beccare le note. Ha fatto anche tutte le musiche di Kurt Weill, per esempio, ha cantato. Se riusciamo, poi magari ne facciamo sentire una. Sì. E quindi voglio dire, multiforme. Poi gli ultimi 20-25 anni della sua vita li ha dedicati a Pierpaolo Pasolini, a questo unico uomo che lei ha amato nella vita, indipendentemente dalle preferenze sessuali di lui e di lei, ma gli ha dedicato la sua creatività, che poteva ancora esprimersi in canzoni, in film, no, l'ha dedicata all'esaltazione di questo scrittore poeta. Perché ha fatto questa fondazione Pasolini, ha restaurato i suoi film, che anche quello è un lavoro difficilissimo, li ha recuperati, restaurati e ritradotti, sottotitolati e portati in giro per tutto il mondo. In Italia non compariva sui giornali, ma lei li portava il Festival Pasolini a Hong Kong, in India, a Bombay, a Calcutta, in America, a Los Angeles, in molti punti. Quindi voglio dire, non è una piccola cosa avere dedicato tutta l'ultima parte della sua vita, e non prendeva neanche lo stipendio. Ce l'ha preso poi alla fine, perché la fondazione aveva sempre dei problemi, lei poi telefonava ai ministri e responsabili culturali facendogli delle scenate tremende, oh, cazzo, portami qua i soldi, vieni immediatamente, cioè, oh, ti vengo, ti prendo, minacciava, faceva di tutto. Però è riuscita a farlo. Quindi insomma, una grande creatività. Poi ha scritto anche questo libro, appunto, curiosissimo, molto strano, che è piuttosto raro da trovare. Non si trova, è della Garzanti, è del 79, c'è stata una ristampa, ma di quell'epoca, degli anni 80. Non si trova, forse nelle biblioteche, non so. Forse sollecitando la Garzanti, chissà. Insomma, no, non si trova. In questo libro curiosissimo, che lei appunto ha pubblicato nel 79, cioè Pasolini era già morto, è morto nel 75, e lei mette come prefazione invece una una cosa che è una specie di necrologio scherzoso che aveva scritto su di lei Pasolini, dicendo che appunto è morta un personaggio molto particolare, eccetera eccetera. Anzi, posso leggerlo forse, sì. È la prefazione del libro. Pasolini dice, taglio il primo pezzo, insomma: è invecchiata e morta, ma sono sicuro che nella sua tomba ella si sente bambina. Ella è certamente fiera della sua morte, considerandola una morte speciale. Inoltre, pur ammettendo in parte di essere morta, appunto perché la sua morte, essendo speciale, può essere ammessa, essa nel tempo stesso non l'ammette. La mia morte è provvisoria, è un fenomeno passeggero, essa par dire, con l'aria di un personaggio di Gogol, di Dostoevsky o di Kafka. In alto loco si sta brigando perché tale noiosa congiuntura venga superata e tutto torni come prima. Del resto, io non ho soluzione di continuità, sono ciò che ero. La mia possibilità di stupore non ha limiti, perché io cado sempre dalle nuvole e rido con meraviglia fanciulla. Contemporaneamente, là nella tomba, dice: io non sono mai nelle nuvole, sono sempre coi piedi a terra. Niente mi meraviglia, perché da sempre io so tutto. Ambiguità? No, doppio gioco. Che essa, la morta, Laura Betti, non era ambigua, anzi era tutta d'un pezzo, inarticolata come un fossile. Ella ha aderito alla sua qualità reale di fossile. Infatti si è messa sul volto una maschera inalterabile di pupattola bionda. Ma attenti, dietro la pupattola che ammetto di essere con la mia maschera c'è una tragica Marlene, una vera Garbo. Nel momento stesso però in cui concretava la sua fossilizzazione infantile adottandone la maschera, eccola contraddire tutto questo recitando la parte di una molteplicità di personaggi diversi fra loro, la cui caratteristica è sempre stata quella di essere uno opposto all'altro. Facendo di lei un esame superficiale, molti le attribuirono in vita una volontà provinciale di denigrazione degli idoli. No, non era soltanto il sadismo di una provinciale che, giunta al centro, dove abitano gli idoli, prova il piacere di profanarli e dissacrarli. In questa dolorosa operazione c'era il suo bisogno di essere contemporaneamente una e un'altra. Una che adora e un'altra che sputa sull'oggetto adorato. Una che mitizza e un'altra che riduce. Ma non era ambiguità, ripeto, il suo gioco era chiaro come il sole. Naturalmente, proponendosi prima di tutto come una delle leggi chiave del suo codice di non fare mai in alcun caso pietà, essa, per il gioco dell'opposizione, ha anche sempre voluto e ammesso anche di fare pietà. Ma la pietà non è stata causata da una o dall'altra delle sue azioni o delle sue situazioni. No, essa è sempre stata causata dall'eccessiva chiarezza del suo gioco. Dunque, è attraverso la pietà che essa è stata costretta a provocare verso la sua persona che è venuta fuori la sua generosità, cioè qualcosa di eroico. Questo, infatti, è il necrologio di un'eroina. Bisogna aggiungere che era molto spiritosa e un'eccellente cuoca. Say goodbye, we've lost our good old. of whiskey, oh, you know why. Ida, tu che l'hai frequentata, eri anche vicina di casa, vogliamo raccontare un aneddoto? Beh, di Laura Betti. Aneddoti ce ne sono. Credo che chiunque abbia conosciuto Laura abbia una serie di aneddoti infinita, perché lei era veramente qualcuno di talmente originale che tutto quello che faceva era particolare, naturalmente a volte anche molto faticoso. Era molto violenta e io, abitando sotto di lei, ho abitato molti anni in via Montoro, la Montora come lo chiamava lei, la Montora, e certe volte abbiamo passato degli anni senza parlarci, perché bastava non darle ragione e lei ti insultava, e così non ci parlavamo più, e anzi ci incontravamo per le scale con delle specie di sguardi di sfida, ma non ci parlavamo per molti anni. Poi dopo si rifaceva magari la conoscenza, ma per esempio quando lei ha scoperto che io abitavo lì sotto, ha incominciato, arrivava, bussava alla mia porta, andiamo, vieni, andiamo al cinema, facciamo qui, facciamo là, e uno doveva anche un po' difendersi per cercare di sopravvivere, insomma. Allora io ho scoperto che lei era molto solidale se io dicevo, beh, veramente c'ho un fidanzato, allora lei diceva, ah vabbè, allora, come dire, niente, però devo avere un po' abusato di questa scusa. Perché una volta che ho tirato fuori di nuovo questa cosa, veramente ci avrei un fidanzato che passa a vedermi, eccetera, lei, che stava rimescolando un'insalata, perché ho dimenticato di dire che lei aveva questo rapporto insano con il cibo, quindi cucinava sempre delle quantità di cose immense che poi ti costringeva a portare a casa perché non si riusciva mai a finirle. E quindi tutti andavamo via con sti sacchetti che poi buttavamo nella immondizia appena usciti di casa. Ma comunque questa insalata, lei stava mescolando un'insalata di patate, ha buttato in aria sta ciotola, sta cofana di patate dappertutto. Io sono scappata. Intanto poco dopo è arrivata una mia amica e dice, che è successo? Allora lei dice, niente, Ida non c'è. Perché non c'è Ida? Dice lei, siediti che ti devo dire una cosa. Oddio, ma quella si spaventa, si siede e dice, Ida è malata. È malata, dice lei, come mai? È ninfomane e non lo sa, gli ha detto. E lì per qualche anno non ci siamo parlate. Anche col lavoro era difficilissimo. Lei ti proponeva spesso dei lavori che secondo lei ti avrebbero fatto guadagnare moltissimo e girare il mondo, invece i guadagni non c'erano mai, girare il mondo e significava portarle la borsa, insomma, con lei, perché lei non voleva star sola, questo era il problema. Quindi anche lì, rifiutando un lavoro o l'altro, poi anche lì non ci parlavamo per anni. Lei mi telefonava dicendo, ti mando in tribunale, e io dicevo, ma io non ho firmato niente, non c'è un contratto tra di noi, è la parola data, e vabbè. E quindi facevamo delle liti furibonde. Poi era anche divertente perché magari poco tempo dopo ti diceva, oh, non crederai perché ci siamo litigate di non venire su a farmi l'iniezione. E quindi insomma uno era un po' a sua disposizione, però ecco, devo dire che per quanto certe volte fosse veramente faticosissima, e soprattutto gli ultimi tempi, perché lei non si rassegnava ad essere così un po' ormai un po' malata, insomma un po' malmessa, voleva sempre vedere gente, voleva sempre fare delle cose, quindi era molto faticosa. Però ecco, quando è scomparsa io ho sentito una mancanza incredibile, perché è proprio un unicum, una originalità assoluta di cui non c'è l'eguale, perché lei ha costruito, come diceva Pasolini, questa immagine di sé nella quale abitava. Infatti, se c'è una persona, io facendo la regista sono abituata abbastanza, vedendo le persone, ad avere una visione attraverso il loro movimento, il loro modo di parlare del loro interno, un pochino. Si succede quando uno fa del genere. Beh, lei non si poteva. Non si capiva il suo interno, era perché era costruito. E questo, voglio dire, è comunque una forma di recita e quindi una forma di offrire alla vita una invenzione poetica in qualche modo. Costante. No? Sì, costante, una grande fatica. E manca a molti, insomma, di amici. Noi ci sentiamo con molte persone, manca perché, ripeto, era eccessiva, strabordante, faticosa, ma di grande originalità e intelligenza anche.